continua, continua. Senti auto, si chiama Polo, no? Tu fai la stessa finestra, perché tu ti chiami Sanna, no? E vai domani con il video per tu io. Vabbè, domani è già schiatta tua madre. Se dovrei staccare come l'ha staccata stanotte, per fare capito, floscio. Gli altri ti hanno preso per... boh, come cazzo si chiama? Eh? Stronzo. Continua, continua. Tanto domani, più fai così, e più io faccio squillettare il fronte tuo. No, adesso tocca a casa tua, floscio.